poi chi ha? Mauro non è entrato, non entra nessuno stasera, tutti quasi a passeggio se ne sono andati, io preferisco andarsene in giro per stare al baracchino. E vabbè, pazienza, dai, come volete dica. Avanti Sabatone, raccontaci quanti chilometri hai fatto stasera sul trattore. Una decina, avanti, chi era quella sirena sul canale 10? No, quella non ci piaceva, quella non si sentiva. Non si sentiva quella. Era proprio lo stava innescando. Santiago 7, l'ho visto, questo baracchino qua era generoso, di eccezione. Ciao, come va, ma quel Santiago 5 è fisso, una cosa da non credere, insomma. Ma io qui ero Santiago Zero di QRM, proprio bello, pulito, di lusso, infatti ho il volume bassissimo, proprio basso basso, così almeno non mi fa sordo, va bene così, dai. E così Antonio, cosa vuoi che ti dica? Se non entra nessuno, pazienza, vuol dire ci sentiremo quando l'hanno voglia di farsi sentire, che problemi ci sono? Ripeto, come ho detto all'inizio di questo QSO, il baracchino non ci dà da mangiare, e è una cosa che si può utilizzare in un secondo tempo, dunque problemi non ce ne sono. La gente preferisce andare in giro e se va bene così vuol dire che va bene, io non volevo che ti dica. Contenti, contenti tutti e contento anch'io. Io sono per aiutare Giuseppe Bettiano perché ieri l'ho trovato sabato e sabato mattina l'ho trovato al bar. C'è avuto con la sera e mi ha detto che anche se non devi piazzarsi tutto in furgone e anche a casa sua. E quindi devo cercare un'antenna per casa e poi devo sistemare l'antenna in furgone così riprende. Almeno entra una persona in più, diciamo. Non è che sia morto, la verità, ma almeno uno dei vecchietti. Devo dire, vecchietta che morava 8 o 10 anni fa, e adesso volevo un po' riflettere. Ok, beh sì. Io avevo trovato Antonio venerdì, l'avevo trovato, gli avevo detto se riprendeva, ha fatto no, non ci penso nemmeno, dice, il baracchino dice ce l'ho sempre, ci manco 10 anni la frequenza ma non riprenderò mai più. No. Di tanto in tanto vedo padre Francesco, l'ho invitato tante volte e mi ha sempre detto ci penso, però non è mai entrato, porca miseria. Ah, Bacchisio, a proposito, anche a lui gli ha detto di farsi sentire. Bacchisio, ci sei in ascolto per caso, vediamo un po'. Bacchisio, se ci sei, dai un colpo. No, Bacchisio vuol dire non c'è. Vabbè. Sì, anche lui naturalmente non è molto contento. Dice, se non c'è mai nessuno, cosa c'entra a fare? In effetti è il discorso che facciamo un po' tutti, no? Non c'è affollamento, non c'è gente, e allora con che parli? Col muro? E allora difficilmente riusciamo a sentirci. Però se dovessimo fare tutti quanti così, succede che la frequenza muore veramente del tutto, muore del tutto. Ripeto, non è che c'è da mangiare il baracchino, però diciamo i gorubi da tenere sempre vivo, secondo me. E perché no? Perché quando abbiamo voglia di fare due chiacchiere, accendiamo e se c'è gente si può fare, ma se non c'è nessuno con chi parli? Col mulo? Vabbè, dai, riprendi Antonio. L'ho ripreso, Ok, allora, non c'è attività neanche di là, c'è poca attività a quanto sembra, quindi sono pochi anche loro, quindi i vecchi. Tutti i radiomotori che hanno preso il patentino da 80 adesso, ognuno è per i fatti suoi, entra quando ne ha voglia, quindi la frequenza anche là, come anche il resto qui da 27, non è più piena, capito? Chi si dedica al computer, chi ha famiglia e quindi non c'è più tempo di entrare, c'è chi magari si è sposato e c'ha figlia, non ha più gara. Il discorso è quello lì. Quando si si rientrerà, non sarà per adesso, penso. Se non ci fai fatto guarda il computer, se tanto lo sapranno stati tutti qui a parlare. Adesso c'è il computer, tutta quella tabella lì e quindi si dedicano a quello, anche se il computer è peggio da baracchino, in verità. Quindi, anzi forse è molto più sicuro il baracchino che il computer, ma quando conosci qualcuno lo conosci come si verrebbe, no? Lo conosci solo a chattare cose così. Ma guarda, scusate se ne prendo io, ma proprio oggi stavo ascoltando il telegiornale e stavano proprio parlando del computer. E il computer addirittura hanno stabilito le cause dei mal di testa, sono causate dal computer. Attenzione perché il computer fa bene ma fa molto ma molto male. E mi prendi Giulio. Sì, quando avevo sentito anch'io qualche tempo fa una trasmissione alla radio, io mi tengo tutto il giorno la radio accesa, dunque quando ci sono delle notizie interessanti allora presto l'orecchio anche alla radio, però di solito non è che l'ascolto, ma quando ci sono ad esempio degli argomenti validi come questa notizia ad esempio del computer oppure i radiogiornali eccetera, allora un orecchio lo butto anche ad ascoltare la radio. Sì, in effetti perlomeno stando a quello che dicono certi esperti, poi bisognerà vedere qual è realmente il grado di diciamo così di nocività, non lo so, non te lo so dire. Tante volte dicono delle stupidaggini, tante volte dicono delle cose serie che sono veramente importanti, ma oggi come oggi, se dovessimo dare retta a tutte le notizie che danno i giornalisti, figurati, oia, c'è da diventare scemo, ma in tutti i campi, sia nel campo politico, sia nel campo delle informazioni in generale, eccetera, eccetera. Perciò, alle volte è meglio, anzi, devo dire, alle volte è meglio non ascoltare nemmeno i notiziari, figurati. Vabbè, non lo so. Sì, ma non è quello che volevo dire, Antonelli, quello che voglio dire io è questo. Ora, i radioamatori, va bene, hanno preso la patente. Io non capisco per quale motivo questi radioamatori credono di essere superiori. Ma superiori in che cosa? Non riesco a capire. Io vedo che certi radioamatori CB, i CB entrano lo stesso, tipo Claudio entra in CB, perché no? E chi è che glielo proibisce? Per quale motivo non deve entrare, io chiedo a questa gente qua. E ho sentito tante volte Marco Scorpio che entra anche lui in CB. Ho sentito Massimiliano che entra in CB. Io non capisco per quale motivo gli altri rinunciano ad entrare in CB. No, questo non riesco a capirlo. Dopotutto sono nati loro dalla CB, sicché per me è come aver mangiato in un piatto e poi averci sputtato dentro. No, non va bene secondo me così. Uno quando si presenta al baracchino, sia a radio o sia apparecchiatura professionale, basta che si comporti bene che va bene. E questo è già da qualche anno che la frequenza qui, perlomeno la 27, io ritengo che sia una frequenza valida per il semplice fatto che non ci sono persone maleducate, non ci sono portanti, non c'è più quel casino che si faceva una volta. Perciò non riesco a capire per quale motivo loro non frequentano la CB, i radioamatori. Boh, non credo che sia né superiore né inferiore a noi, guarda, solo perché hanno un patentino, no, questo non è una superiorità, Antonio, anche a te ti dico, Antu, cosa volete che vi dica? Ditemi voi la vostra impressione, vai Antonio. Io ti dico che la differenza tra noi e loro più che altro è che loro non possono sgarrare a parlare, capito? Il discorso è quello, loro sono controllati. Il patentino, chi l'ha avuto ha studiato, ripeto quello, chi l'ha avuto ha studiato, chi l'ha avuto invece ingrassando, nel senso che la patente non se l'ha sudata, ce ne sono parecchi, come anche si fa anche per le auto, però lì la cosa è diversa, lì se senti come fanno i CP, subito ti fanno fuori perché non hai andato a vedere tutto. Invece qua, ai periodi prima, chiunque entrava ti pigliava la faccia, sembrava un buon dettaglio. E quindi c'era molta più gente, però era un casino. Invece adesso, grazie a Dio, la frequenza è cambiata. Pochi, uni, come di solito non è che ce ne sia molta tra noi e loro. C'è poca gente e i pochi che ci sono parlano non molto, diciamo, parlano poco. Capito? Sì, io voglio aggiungere ancora, Antonio, voglio anche aggiungere che io ascolto sempre loro, no? In due mitri, in UHF, insomma, ascolto, li ascolto, le moto li ascolto, ma devo dirti che non è che ci sia questa grande differenza dalle stupidaggini che diciamo noi a quelle che dicono loro, più o meno si equivalgono, guarda, perciò non è, anche loro se devono parlare di pazzi e fagioli, parlano anche loro di pazzi e fagioli come parliamo noi per dire in 27, non è che ci sia poi questa grande differenza. E poi devo dirti anche un altro particolare, non sono tutti nemmeno in grado di sopportare la frequenza radioamatoriale, perché è evidentissima la scarsità di preparazione che hanno, guarda, io non voglio criticare nessuno, però ripeto, non sono superiori a quello che si comporta bene in 27, nella maniera più assoluta, no, io parlo dal lato tecnico, lascia stare la questione uomo eccetera, perché l'uomo può essere bravo, può essere cattivo, no? Siamo dietro il microfono e dunque ci conosciamo, ma ci conosciamo così in maniera molto relativa e non siamo in grado di valutare e di poter giudicare l'uno o l'altro, né io agli altri né gli altri a me, per dire, no? Perché ripeto, siamo dietro un microfono. Però stando a quello che può dire tecnicamente, non è che ci sia poi tanta differenza, perché io li ho ascoltati tante volte e fanno certi discorsi proprio terra a terra, ma terra a terra a livello quando volete dica, ed è quasi assurdo che uno possa avere la patente da radioamatore, invece è considerato che si deve studiare tanto per poi sentire certi discorsi che in realtà non sono per niente tecnici, o meglio li fanno, ma li fanno in maniera completamente errata, guarda, questo te lo posso dire. Comunque io adesso mi ascolto l'ulfinalino, poi mi devo assentare perché è venuto mio fratello, dai. Avanti Antonio Falchetto. È positivo Giulio, sì, perché ricapitolare tutto quello che ha detto, non è che c'è questa grossa differenza. Va bene, io ti saluto Giulio, ho fatto molto piacere ascoltarti e niente, a tutte le migliori, le prossimine e tutto il bene che desideri. Avanti buon cuore per i saluti e poi fai girare, dai. Ciao Giulio, ci sentiamo con quelli di tutto, le prossimine. Bisogna studiare elettronica dalle basi, dalle fondamenta, non dal primo piano. Il discorso è questo, per essere radioamatore, per essere un radioamatore. Un radioamatore deve ripararsi gli apparecchi suoi, o al limite ricostruirsi da solo, come si faceva tanti anni fa quando c'era l'elettronica, c'era anche altre cose da fare quando si doveva studiare come potete il patentino. Adesso non so come sia gli argomenti, perché non sono più interessante, quindi non so cosa dirti. Comunque un dirigente di apparecchi li può aggiustare, che non mi sembra manco giusto. Se uno ha le basi di elettronica, portare le fondamenta dell'apparecchio, un microfono serve sistemare lui, il discorso è questo, come faccio io, quando c'è qualcosa me la sistemo da solo, non è che vado a un tecnico, ma ci vado a fare un tecnico, sarebbe la pelle da zappa e tagliare le gambe da solo, per dire, tutto lì, avanti a tutti. Cappa, non so se Giulio ha ascoltato fino a lì, Giulio ha ascoltato tutto? Sì, ho ascoltato, dai, e vi saluto adesso con questo ultimo passaggio perché, ripeto, è venuto mio fratello o mia cognata, sono giù nel piano di sotto, siccome io avevo le cuffie qua e poi anche con la porta chiusa, tra l'altro, non ho sentito niente, è salita mia moglie a avvisarmi che è arrivato mio fratello. Va bene, dai, grazie per il QSO, avremmo potuto continuare, ma purtroppo devo scendere giù, ci sono i miei parenti, dunque è giusto che io sia presente. Ci sentiamo, ciao, grazie ancora, ciao Antonello, Antonio Falchetto, Leoncino se mi stai ascoltando, Salvatore, tutti quanti insomma, quelli che sono all'ascolto. Saluto a tutti per me, QRT, dai, ne prende pure Antonello. Sì, era l'amico che mi ha salutato. Buonasera, chi sì? Avete parlato in due, non ho capito bene. Ehi, ti stavo salutando io, Benito, ciao giù, buonasera a tutta la ruota. Ah, ok, ciao Benito, caspita, poc'anzi ti stavo cercando. Peccato che sia arrivato adesso che io sto andando via, vabbè, pazienza, evidentemente avevi altri impegni. Ciao Benito, ci sentiamo alle prossime, dai, c'è mio fratello e mia cognata giù e nel piano di sotto, nel salone, che devo per forza attendere, dai. Ciao, grazie, ciao per avermi salutato, grazie, Benito, ci sentiamo, riprendi. Eia, capa, ciao ciao. Ciao Antonello, ciao a Falchetto, Giuseppe e Tore Barragrico, buonasera a tutti. Ciao Benito, saluto di bella entrata. Beh, come ne ascolti, bene sta andando. Ehi, è più forte il radio questo, è più forte del tuo. Sì, la tangosa era un meno il tuo. C'è una differenza. L'unica cosa di tutto questo baracchino di ricezione, c'è Santiago 5 non è venuto a rinnovare. In trasmissione invece esce molto bene, è un po' bene anche perché stasera mi ha fatto uno scherzetto, io pensavo fosse un finale che si fosse bruciando, invece quando abbiamo aumentato il watt, in pratica l'alimentatore dopo un po' di 5-10 minuti cominciava a scendersi da solo e il viaggio mi toccava e mi venivo con tutto in ovvio e invece era il coso, era quando mi metti un po' di parte l'alimentatore mio non ce la fa 5 ampere, vedi adesso sono un po' di valenza, guarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po', 1, 2, 3, 4, sto saturando, adesso io torno come prima, ecco fatto, così sono 5 watt. Ok, yeah. Va bene, va bene. Guarda che quello arriva, 21 arriva, Ok, invece va più di 21 arriva, non ti preoccupare, perché evidentemente avevamo regolato così. Adesso comunque ti vengo rivolto dal potenziometro e così sei più tranquillo. Capito? Ok, positivo, dai. Poi vabbè, ma la capsula è cambiata, no? No, la capsula non l'ho toccata, prima devo chiedere a te, non cambiavo la capsula così, no? Possiamo fare la prova, quando vieni qui sabato, al limite lo usi così, poi sabato al limite facciamo la prova, proviamo a cambiare la capsula e vediamo la differenza che c'è da una all'altra, se per caso non c'è differenza, magari la capsula che mettiamo va più bassa, la rilasciamo quella che c'è sotto di girare, no? Sì, vabbè, la prova a capsula la puoi fare anche tu, così io ti sento. Ma cosa lo faccio io, no? Domani te lo fa lui allora, non c'è problema. Mi segnali quando ti arrivo giù a te? Dove sei? A casa tua? Ehi, aspetta che ti ho detto che c'ho quello di metterla rotto. Ehi, quando la 5 ampere non serve nulla, come dicevi, bisogna mettere l'alimentazione attaccata direttamente all'alimentatore del tempo che io qua. Ma non c'è aspetta. Ecco, così c'è meno assorbimento. Mi devo attaccare il display. Guarda un po'. Ciao, vedi. Scusate, faccio un attimo di bianco, riprendo subito a dove. Saluto che è venuto. D'accordo. Sta facendo una cosa. Corico. Avanti. Buona a tutti, buona a tutti. Ciao Luigi, saluto di Benzato. C'è, dovete essere anche sabato le parole agricola qua. Yeah, buonasera a tutti, dai. A tutta la ruota che c'è a giro, dai. Ah, se lo stavo chiamando poco fa su 6, invece non mi ha sentito. No, ma molto prima però, non ho fa? Sì, un'ora fa, buone. Ma ci sono stato un attimino con Rita e poi no, me ne sono andato. Capito. Capito? casa al baracchino devo uscire pure in camion, hai capito? Vuol dire che c'è problema di qualcosa nel camion, nell'impianto. Ma il bruto funziona benissimo. E ieri a Luca gli arrivava 9+20 e diceva arrivava benissimo, no ieri, avanti ieri. Ripetete la luce. fatto che ci è rimasta, come è scorto, ma sto io è zitta. Dio, perché io sto modulando e quella pietra è un'altra parte, capito? Non è che gli stia dando molta importanza, capito? Guarda bene, del caffè stai bevendo, di la verità. E non posso bere, non posso bere, perché sto facendo gli analisi, insomma, ne prendo la patente. Quando vai al bar di notte, dopo la mezzanotte, e ti metti in macchina, se lo trepassi quei livelli, te ne pigliano la patente, poi già vede, adesso che deve andare a sbronzarti, o si compra la birra a casa, nel supermercato, se ne pigliano a cassa, o se no, appena al bar, mi sa che fa poco il bar, e lo cai notturno e se ne vanno in pensione. Fanno fare queste visite dell'azienda, è un casotto, è capito, è un casotto, non si fidano di niente, ma di nulla ti dico, neanche delle urine si fidano, guarda, non si fidano delle urine. C'hanno ragione, mio, sai perché? A parte che ti ammazzi tu, poi ammazzi anche altre persone, quindi ormai il camionista che andava a farsi il, diciamo, il proprio, solamente hanno ritratto, non lo sta mangiando e basta. Forse neanche nemmeno, però c'erano certi, tanti anni fa io mi ricordo, nell'80-90, quanti credi andavano, di solito la via Vesuvius, tutti a lì 5-10 camionisti a bere, un giro, due giri, tre giri. Sì, sì, sì, no, ma è una cosa proprio, guarda, ti sto dicendo che fanno poi, fanno qualcosa per la droga, per le... Guarda, una cosa da non credere, non si fidano, ti fanno fare le urine, niente, non si, guarda, ti ci mettono la faccia davanti, tu ragazzi gli dati da prendere, muore la faccia, devi farla davanti a loro, deve vedere l'urina uscendo dall'uccello tuo, ti mettono la faccia sopra, e cadere la viaggio gli dici tu mi hai preso, muore la faccia, ho detto, ma ascolta, fosse stata una donna, ho detto, ma ha detto, se lei mi insegue così, io non ci riesco a farla, E tu per quello devi usare il sistema, diciamo, gli antichi. Aspetta, una faccia, ti guardano proprio, devi farlo davanti a loro, perché ripetono con qualche pompetta, tu cosa fai scendere l'urina da, non è la tua, capito? Miracolo, non te la pigliano in mano, se no ce la fai, la fai, già. Se qualche, se tu qualche persona, come è capitato, a meno sperare che... stavano spammando una crema e questo faceva tutto un tratto e quello faceva una ciara, si muova signorina, diceva sì, perché si muova signorina, io non rispondo più a niente, che fa via tutto un tratto, il cricco si è alzato e dovevo vedere quella ragazza è stata rossa come un pomodoro. Allora questo era uomo, Ida, questo era uomo, era uomo, era lì, l'ha visto, a chi viene nei bar ci venne l'analisi dell'urina, ne ha visto il giorno, cavolo, ai altri gli rende mai tuo fianco e tu si dava, no, si ci rimane davanti a me, si metta là dietro per cortesia, e si muoia la faccia sopra, ma insomma. Perché un sacco di gente scambia l'urina, non hai capito nulla, fanno bene per quelle cose, fanno veramente bene, perché un sacco di gente... Si fa il coca, si fa le cose, pasticcato, va a lavorare, capito? Quando vai a fare i controlli, quei controlli non esistevano per niente, eri tranquillo. Anche perché la maggior parte bevevano e tutti quanti se ne fregavano. Adesso invece con la scusa, con la proprio per i problemi degli incidenti che ci sono, controllano tutti. C'hanno veramente ragione, non c'hanno proprio. Purtroppo è così. Anche nei posti di lavoro in Italia è una stessa cosa adesso. Ti controllano le urine, ti controllano tutto, anche al comune, se c'è un posto di responsabilità, ma cosa ti fanno sono i controlli dell'urina, del sangue, ti controllano tutto, se sei drogato oppure no, se sei drogato manco ti pigliano, ha finito. Lo so, ma io ci vogliono, non ci vogliono. Troppi incidenti ci sono. Troppa gente che si è arrivata le balle, capito? Sacco di ragazzi di 18 anni che pensano solo a divertirsi la sera, dopo che scuola volare, quando si pasticcano, poi si mettono a bere, il primo che trovano in mezzo strada lo facciano, hai capito? E nessuno sa nulla. È meglio che ci siano questi controlli. Ea, perché? A saldare, Barra Agricola ha preso un gioco. No Gigi, Benito stava provando sul 12, però stava sempre mescando e dice che quando appoggiava il dito prendeva e lo lasciava innescava e niente, stava provando. Faccio un attimo il bianco io, ci stiamo fra una mezz'oretta. Ehi. Ok, va bene, va bene. Ma che, ci sono, sono tornato. Beh, tutto a posto, bene. E allora, schiaccia appena appena, scusate, c'era, io l'ho messo così direttamente, scusate, c'era ancora Ossi, non l'ho guardato e adesso sta andando. Ah, positivo. C'è Gigi da Montiaro. Ehi, Gigi, adesso mi senti? Adesso sì, il segnale è uguale, la radio è forte. Prima c'era il segnale, non c'era la radio, capisci? Adesso va bene. Ma l'altro era l'originale, gli ho messo l'originale giusto per continuare a parlare, da mentre io aggiustavo quello. No, ma non verrà in radio, è possibile che tu c'ha un 920 senza radio, hai capito? C'è qualcosa che non va neanche in quello originale, hai capito? Non l'ho mai usato, mai proprio, non si era incirata la capsula. Poi qualcosa, ti tagliare non c'è radio, se prima si vedeva solo la portante, c'era qualcuno mettendo portante e non si sentiva la voce, poi pian piano si sentiva un po' di voce. È capace a attaccarlo di nuovo. Ciao, chi è? Non riconosci la voce, non mi riconosci. Ti riconosco? Come? Perché sei un po' basino, chi è? Ciao, ciao. Leoncino, ciao Leoncino. No, non lo ero un po' facendo memoria, capito? Dai, sono qua in ascolto, dai, sono qua in ascolto. Positivo, positivo. Vieni, non va bene col microfono, dai, non c'è radio, capito? Non c'è radio. È il tuo originale, è il tuo originale. Poca radio c'è, poca. E tu dici che fa un treno? Vai. Allora, Luca, dove sei? Arrivo subito, arrivo subito. Gappa, c'è anche Rita, siamo le 24, le abbiamo lasciate in parcheggio, ci sei ancora Rita? No, Rita l'hai truffata, non abbiamo dato la parola e ci siamo andati a quel paese. Si è fatto bene. Io pure non sentirà, già sai. Oggi c'ho mal di testa, mannaggia la miseria, c'è in campo, sarà perché non sto bevendo niente in questo periodo, sarà per quello, non sono abituato a non bere. Aspetta, prova a ri. Questo è l'MV+4, mi senti bene? Cos'è l'MV+4? Eia. Che su che apparato stai operando? Sul 48? Sì, sul 48. Non è che sia un granché, no, non è un granché. Non andrà bene? Prova, prova a parlare un po' più a lungo, non mi piace molto. Vabbè, avrà anche la batteria scarica. Attento, Luigi, non mi ascolti. batteria scarica, perché adesso era tutto sconfuso, tutto sconfusionato era. Se c'è la batteria scarica, allora ecco perché sta uscendo così, dai. No. Con la batteria forse va meglio, così non va bene lì, non va tanto bene. Sicuramente la batteria è scarica. Forte il radio, già è forte, rimane troppo cupo, ma va bene. Ma lo sai, io l'ho provato nel 48, ci avevo qua quelle normali, non usciva bene, chissà perché, l'MP più 4, così si chiama, boh, non lo so per quale motivo, non usciva bene anche da me, non lo so, boh, ecco la batteria nuova, l'ARA 48, quelle baracchine normali non andava bene, non lo so per quale motivo. Già va, l'unica cosa che deve accordare bene che c'era troppo cupa. La corda non mette pare ti piace, su altri apparati, per esempio sul Lafayette andava bene, sul Pluto andava bene, sull'87 si abbinava una meraviglia, però non lo so, su 48, il 48 normale non andava bene, non so per quale motivo, ne ho provato su tanti, Riprendi, Ri. Mi senti? Adesso c'è il microfono normale, Ri. Eia, con il GTE. Va meglio col GTE. Eia. La radio è pulita, bella, però non spinge. È il barattolo di Stefano, per forza. Ma va a me, anche quello sta andando. No, già va bene lo stesso. La radio l'hai già aperta, non c'è, lo sai già cosa fare, dai. Lo sai già come fare tu lì. No, negativo, questo l'aveva fatto Roberto, quindi io non lo metto a caso. Ha fatto chi? Ma lo sai, il 48 è quello lì. Ehi, al 48 di Stefano. Ma che l'ha fatto Roberto? Positivo, quando ne avevo messo i canali sopra e sotto. Questo è quello dei canali sopra e sotto, Ehi, il mio primo 48. È positivo, positivo. Luca, ci sei? Anch'io lo sto dicendo, ciao Lugaria, se ci sei. Già fuggi i due. Luca, allora, aspetta Luca, il fatto del computer, capito? Il fatto del computer, ieri ne parlava del telegiornale che bisogna, ci sono questi centri per curarsi per questo fatto del computer, perché i ragazzi si stanno chiudendo in casa, non escono più e stanno sempre attaccati al computer, allora c'è una cosa, questi centri adatti per recuperare. Arrivano da Salemania. Posso dire, ma è brutta, come va? Notificare il per quanto le ruote, bubu. Ho capito, lo sto facendo? Questo, mi speravo non avere disagio, non è capito. Che disagio? Aspetta, che giornale l'avete sentito? No, io non l'ho sentito. Scusami per la cosa, però no. E allora, ieri, o avanti ieri, i ragazzi, a parlare dei ragazzi, non di adulti, perché adulti sono peggio dei ragazzi, ci sono questi ragazzi, 13, 17 anni, anche 14 anni, i genitori che si accorgono che il ragazzo inizia a non uscire più, non esce di casa e sta sempre col computer. C'erano questi che c'erano questi centri, queste cose che erano, è una malattia, se prende un coso, ma stavo parlando, l'ho parlato ieri, stavo ascoltando, il telegiornale me ne ha parlato, non è che me ne sto inventando io, no, queste cose, l'ho parlato ieri del telegiornale di questa cosa qua, e c'è questi centri, questo centro per recuperare, cercare di recuperare, non come cavolo si chiama, questi ragazzi che in poche parole sono drogati dal computer. Ho capito, vabbè, beato che io ho computer, non ne ho, per fortuna, non sono un computer. mondiale. Ogni cosa, la sigaretta, ogni cosa è una invenzione. E si prende il vizio, le macchinette, le, come si chiama, le cose che si giocano al casino, le cavalle, è tutto un vizio quello lì. È positivo. Adesso seriamente ne ha parlato, non so adesso se qualcuno l'ha sentito o ieri o avanti, stavo guardando il telegiornale e c'era questi professori, non c'è il telegiornale, mi sembra che era nel programma di chi è Barbara D'Urso, e no, chi è quella che c'è la sera, c'è quel programma, e c'erano questi addetti per il fatto del computer, che sono molti ragazzi che se ne accorgete quando il ragazzo, vostro figlio, inizia a non uscire più di casa, a rimanere sempre seduto lì al computer, non esce più di casa, non fa più, non va a fare sport, a fare ecco, rimane, dice, allora è già un problema serio. Quelli sono i problemi seri che bisogna intervenire subito. E stavo parlando, io non vado via la televisione, questo fatto qua. Sei Luca? Luca, ci sei? Senta, Valeria Marini, fatti un colpo se ci sei! Riprende. Eia, eia. Rita, tu cosa ne pensi del computer? Guarda, stiamo parlando io con Stefano qua, che è... come si chiama? Che mi ha detto che sono troppo attaccata al computer. Ma tu non hai visto quel programma, mi pare che cos'è Barbara D'Urso quella che fa quel programma. Ma c'erano questi non psichiatri, come cavolo li vuoi chiamare, che stanno facendo questo, che stanno fatto questo centro di recupero. Però veramente, perché sono ragazzi che stanno male, stanno parlando, la parlata a lungo, stanno ascoltando questo discorso io, questo affare qua. Che ti prende e poi ti prende una cosa, una specie di malattia, mi capisco, questa cosa qua. Eh sì, positivo. Non ce l'ho detto, ma cosa, devi mollare il computer, guarda che mi fate parlare le persone. Ti sicuri? Presto l'ha detto Stefano. L'ha detto adesso, l'ha sentito a me. E io sai che metto sempre, butto sempre i benzina nel fuoco. Ho detto, ci sei. Però lui è al computer, mi Stefano, io mi stavo ricostruendo le unghie ancora. Fatto. Stefani, guarda che poi ti prende con la malattia brutta al computer, ti prende al computerite e un casino, no, come se. Luca, ce l'ho io al computerite, lui, ce l'ho io ormai sì. Vabbè, via, ascolta me, attacca la roba là un attimino. Proviamo, vai. Eia, l'ho già acceso, la canale dov'era che l'hai lasciato tu? Ascolta però, gira dietro, dimmi gli ultimi tre, 800, giusto? Gli ultimi tre, dopo il punto. Sono 10? No, sono 10 e 500. No, aspetta. Forse la temperatura è troppo bassa, aspetta un attimino, aspetta, aspetta. La fulminata. Però guarda, non sopporto una cosa, quello di Via Pascoli, la veterinaria di Via Pascoli. Sono, guarda, non ho parole, non ho parole, veramente. Sono cliente e poi mi, cioè non... Mi ha dato attivo, non me l'ho detto, non posso darmi informazioni al telefono. Ho detto, scusi, ma quanto è il danno per... 22 euro. 22 euro. Cioè, no, 22 euro per cosa? Per niente. Figurati. Sono delle... Vabbè, lasciamo perdere, no? La gente... Uiuia. Ah, diciamo io vado in cartolina adesso. Cambio... Cambio posto, vado dall'altra parte a fargli i vaccini. Faccio io il vaccino, che ci riesco. Ehi, Anna Falchi, faccio io il vaccino. Come si chiama? Monica, Enzo, Patrick. Non ho capito lì, scusa. Detto Stefano, come si chiama? Monica. Ah, Monica è quella che cosa il cane, sì. Adesso c'è la voce più avanti, lì in via Pascoli. Enzo. No, non so come si chiama, Bu. Sì, quella lì è Monica, quella che c'ha il coso del Dog City. Cosa, mi scusa? Stefano stava dicendo, quella che dove la fanno i cani e cosa stava dicendo? Quella è dove la fanno i cani, quella lì è Monica, sì. Capelluccio. Ecco, aspetta che lo dico io, chi è questa Monica? Bu. Mi ha buona bulu, molto molto carina voi. Mercato della Faini. Una vacca sti gammi, io ti vedo buona Monica, buona, buona, ma ragazza, ma la... Beh, oddio. Inizia già essere una donna, 41 anni. Sembra Monica Bellucci. Se la vedi lui, mi sa che tu hai già vista qualche volta, buh. Comunque molto carina. Sì, ma io l'ho vista quando aveva 17 anni. Io non mi ricordo il cognome, c'è anche su Facebook, su Lisbicum, come dice. Luca, quanti anni hai il cane? Il cane? Il cane che c'hai? 2 anni. Una che ha 3 anni. E stamattina stava correndo, ha preso i gabbiani e le cornacchie che c'erano le feccole. E dopo che ha finito di correre è andato sulla limugittura, c'era il beveratoio delle feccole e si è messo a bagno, si è fatto il bagno, dopo è tornato a uscire e torna a correre, ha preso i gabbiani e le cornacchie, ma lo devi soltanto vedere. No, ma lui è già, quando si mette a correre è già... Maledetta, ecco. Ah, il giorno l'ho vista morta. Era buio, non rispondeva più, si guardava. Perché quando è nella cuccia sua, non la chiamo, viene, ti chiamiamo lui. E io fuori. Oh, nulla, non si fa per niente. Per nessuna ragione. Buon allucinante va. E la roba si è ripresa. Mi pare che voi che sono su Lisbicum. Lisbicum. Mi ci dici Facebook, c'è Lisbicum. Comunque per esso, puoi cambiare logo per il cane. Ce n'è uno, hai visto lo faccio il bullo. Sì, ma a luna e sole qua. Ah? Sì, per andare a luna e sole sono bravi. Quello di luna e sole, di fronte alla... Non proprio dopo c'è il bullo. Ma non so di preciso, comunque mi hanno fatto l'isola di una sola che sono molto bravi. Il papà scudo pochezione, cioè prima il vaccino era 20 euro, mi hai capito? Adesso è, adesso sono due in uno, 40 euro, cioè un unico vaccino, tutti maledetti. Qua siamo tutti quanti manca a manca, si può provare a destra e a sinistra, capito? alle 6:30, madonna. Ti morite al mare? Sono di mare oggi, no? E vabbè, a casa. E vabbè, oggi è una bella giornata. Ehi, a ma Stefano stava lavorando. Ah, vabbè, prima non vuole più piacere. Leia. Ti lei di cumo. Ma ci sono io. Su Facebook. Cosa vuol dire sei tu? Adesso in linea sono. Tu aspetta. Ora tu sei offline. E cambia il tuo nome, non è più uno che ti chiami. C'è un nome è sotto. Come tu come ti chiami? Mica sono in guerra, Ah, sei in guerra. Ma il nome è sempre lo stesso, no? No, ho messo Radio di Sole. No, ci si vede. Non ci sei più come eri prima, io ti ho visto però per cosa come eri. Cambiato con il nome d'attivo. No, già c'è lo stesso, a fianco c'è lo stesso. Ah, che apparrogione. E io ci sono rimasto io, Luca. Mica ti cacciano così, è una guglia. Certo non ci sei. Non ti cacciano così, no. E io non ce l'ho più entrato, se entro sai quante amicizie ci sono che mi hanno chiesto l'amicizia. Vedete, Angelo Padre Pio ha messo la foto a me, c'è un anno originale insieme, abbracciati. Cappagatto. Stefano lì è Rita. Ehi, sta rompendo, già c'è. Ma su lui mi comunque lui è, no? No, lui è l'era della pietra. Ce lo facciamo vedere una ragazza. Vediamo cosa dice qua. Cosa? Ti facciamo vedere una ragazza, vediamo cosa dice. Non può entrare, non è iscritto. Dai, dal tuo. Vediamo cosa commenta, così mi qua giornata a bocca. No, è spento il mio. Ecco, vabbè, comunque. Niente, questo ha messo la bellezza di 650 foto. È una bella ragazza, perché lui si trova qui, rimane a bocca aperta, rimane a bocca, gioca a pallone anche, si tiene bene, rimane a bocca aperta. Senti, ma c'è una che ha chiesto due mi hanno chiesto l'amicizia, io gliel'ho offerta e non le conosco comunque, le ho viste, cioè, mi hanno chiesto l'amicizia, ma dal primo periodo che mi sono scritto, però non ho mai risposto, non ho fatto mai niente, io anzi io poco riso che entrare, no? Cioè, sarò 2 mesi che non lo guardo, 2 o 3 mesi pure. Se c'è una seconda questa ragazza rimane a bocca aperta, tutto lo dico io. Lascia perdere che poi mi prende la malattia, cosa ha detto poco fa, la computerite, vorrei che ti dico. La computerite, ma proprio va. Dico una lesbica purtroppo, che c'è più la donna degli uomini, però è molto molto bella, fatta bene. Fatta contare sul vostro, ma come non ha fatto niente? C'è una vita al fosso lì, Benì, c'è una vita. Tanto cosa va. Bisogna chiamare qualcuno lì. Lì è pericoloso, c'è qualche morto, si ammazzano. Io meno male non so il piano. Ma io non l'ho visto, capitamente è un gioco, l'ha fatto. Via, sto con i miodi. Meno male non mi ha piegato il cerchio, me l'ha rotto, Si è appagato. Comunque Luigi, ce l'avete il computer a casa, sì? È positivo. Quando accendi il tuo contatto, il tuo account, scrivi in alto Simona Sodini, non c'è da sbagliare, e poi mi dai la risposta. Lo scrivo, signora? Simona Sodini. Simona Sodini. Allora, mi pare che chi sa che aspetta un attimo, c'è una, mi sembra, questa Simona, che una di queste due, tempo fa, mi ha chiesto un'amicizia, una di queste due qua. Sì, ma gioca, un volpolino c'era. Capito? Sì, forse, sai cos'è, ma non è che è nell'amicizia di Telomecchino questa qua? Non lo so, lui. Sono giocare al Torino. Era molto brava. È molto brava. Non lo so, ha tanti amici, ha 650 amici. Lu, c'è quel cane che ti sta a piedi. Lu, senti. Oggi è in druga, buona niente da te. Che cane? Che cane è? Ma è tedesco. Ehi, ehi. Come ti sei tu mangiando? Stasera, no, stamattina. Ma è saputo un pugnato per aiutare un mito. Tanto la carina ha inizio di Valchetto, l'ha giocata a Bargiani, l'ha giocata un verso di Rugane e quella da Bargiani. Oh, yeah, yeah. No, la mia dipende dalla giornata, molte volte a mai, molte volte no. Gappa, gappa. Quando hai fatto un programma su questa ragazza, bella, eh? Brava veramente. Baby. Luca! E anche tu ci sei, sono andato alla barra agricola. Quale? Sei seduto su un cammello, un cammello alla gobba, tu sei quello. Credo no. No, sei tu seduto su un cammello alla gobba. Bello, una volta se sto vedendo i cammelli, in televisione li ho visti i cammelli. Yeah. Lui, ti puoi chiedere questa qua la foto, questa che è capata adesso. Se tu la vedi dici mamma mia, altro che baracchino, eh. Lo so. Voglio dire, inutile che vedi e non tocchi. Scusami, Lucarie, è inutile che vedi e non tocchi. No, ma dico, fatta bene. Peccato che lui sbicum. Lui sbicum. Come sono arrivati da Marini, ci ha portato Santiago Rovo, ma mi può andare. Ma tu baracchino come mi sente se non lui? E io ti sento sempre preciso, ne puoi cambiare 50 i baracchini, sempre uguale sei tu. Ora me la faccio cambiare. Esci sempre uguale tu, cambi il baracchino, ma sempre uguale, sì. Mi va bene, Mito, ora vuoi cambiare? Sì, Non hai l'eco, però va bene, Mito. Sono l'altro, c'hai l'altro a fianco? Sì, l'altro a fianco c'ho. Accendila a sentire quanto cambia. Di più è caparroggero, questo buono è, questo barrachino. Fino a fare il caffè. No, questa la foto, lui, questa, mi. Questo c'ha lei, cotto. E anche se senza letto è uguale, cambia. Adesso con l'eco, l'eco, va bene, cambio! Ehi, atto, già va bene. Sì, questo l'eco. Ma vieni qua che ti faccio vedere un po' il trattore, vieni! Attenzione, Luigi Vulsmai, di questa stazione, cambia! Vai, tu un cappotto di sul trattore, attenta, il tuo cappotto, vada a scommettere con me! Attenzione, Luigi Vulcano! Io attento sogno sempre. E lo so che sei attento. E a valle non ce l'ha quel baracchino. Questo no, caro mio, questo è quello fisso a casa, cambio. Ah, caparroggio, quello è provato, va. Va. Guarda, adesso prendo la macchina, attacco la macchina, vediamo, cambio. C'è bisogno, poi abbiamo visto che andava, eh. L'abbiamo acceso ma l'abbiamo provato, va bene comunque. Va, già è a posto. Attenzione, Sparviero, se si ha l'ascolto, cambia. Mamma, dove? E beh, Lucariello. Vabbè, allora. Mi sono attratto 3 secondi fa. E adesso attacco in BM, là, e ci sentiamo in BM. Speriamo. Ma Claudio non c'è? No. E già l'ha dormito. Già ci sono, io già ci sono. Ciao, attenti, ma non le vuole parlare. Ci sentiamo, ciao amore. Ehi, ciao Claudio. Sì, già. No, mi sono accasso adesso, là. E ci accendo in macchina e... qui faccio una chiacchierata e vado a pigliare una cosa con Tonino, dai, ciao. Ehi, salutami Tonino, ci sentiamo, ci vediamo. Non sono compiuto. Ciao. Ciao Gigi. La computerite. Non credo proprio, non ha giocato con le vicine di dietro. Facendo relazioni, sto lavorando al computer, sto facendo roba al computer di lavoro, là. Cioè, ci sentiamo, statevi bene, ciao a tutti. Ciao Claudia, dai, fate buon continuo alla serata, ciao. Ciao Sara, buonasera, buon continuo. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Buonasera, dottor Claudio, buonasera, ben sentito. Ciao, ciao, ciao, ciao Antonio. Non è di rana in questo periodo benigno. Non è pure una passare la gana, è molto sempre l'entrata, e poi scendi. Ciao. Ehi, guarda, come posso? Già ti chiamo prima, però, ti porto una cosa là. Va bene, sono qua. Ma tu, sto già risetti, me ne vado su un po' di televisione, vediamo... se c'è qualche pentola accesa o qualche avanzo da mezzogiorno. Eia, invece uno loro è. Sì, sono le 7:15, va. Positivo, così se questo giorno ho mangiato troppo a mezzogiorno, ieri non ti ho mangiato troppo lo stesso, l'ho mangiato troppo. A periodi, perché anche a me, a periodi mi rivolgo tutto, a periodi non ho giocato più niente. Però infatti a me la gara non mi passa mai, chi se vero il problema, vedi? È la voglia che non riesce a passarmi a me. Dipende sempre da quello che fai durante la giornata. E a me che sto dicendo, il problema è a me. È la voglia che non mi passa, capito? Che c'ho sempre voglia di mangiare, è la voglia che non mi passa. Quindi adesso ti allarghi. E a fottettine, non mi allargo con la Giacchegnini. Ah no, 10 minuti di corsa e poi già scende. Vedo, non ho più voglia di andare a ricorrere, no? No, e farebbe bene, non correrò, ma non manco camminare a piedi, va bene. Fa bene camminare a piedi. Meglio, fa molto bene alla circolazione e a tutto. Sì. Perry, eccomi qua. Comunque veniva Romano, non va bene. No, andala. Non va. Se... no. Questa qui era... no. Così era, no. Ecco qui. Non c'è l'antenna esterna. E quello lì fa... mi sembra un watt. 5 watt. Adesso provo buco a mettere, però non c'è l'attacco per lì, capito, per l'antenna. Ragazzi, io vi saluto, dai. Vi saluto tutti in particolare, me ne vado su a casa, ce la riascoltiamo le prossimine, ciao a tutti in particolare. Rita, se ci sei ancora, Luca, Benito, Barra Agricola, ciao a tutti. Ma ciao Gigi. Luigi, alle prossime. Eia, aspetta un attimo, sto contando il computer di un amico, aspetta. Se lui va a zero, cioè, ma che pazzo. Sì, arrivo subito, sono qua comunque. Sì, no, il Gigi mi ha salutato. Ah, ciao Luigi, dai, ci sentiamo alle prossime. Sono un po'... mi sto contando il computer, questo amico che c'ha... ehi, che casino, madonna. Casino del suo computer, Marone. Oh, cosa stai facendo? Rotto battando. sotto dietro. Rompizolle. Ah, rompizolle. Quindi domani semi e poi torna a passare qualcosa. Colato qualcosa. Con la seminatrice che fa seminando, comprende, dopo lo rullo. Dopo deve piovere. Sì, dice, no, lunedì, ma martedì mi pare. Non ho sentito bene. Ma se ho finito martedì può anche piovere fino al mese di gennaio. L'importante è che tu hai seminato. Quello che è vero. Cappa. Ciao Giuseppe, Leoncino, o vuoi che ti chiami Biloncino come vecchi tempi? Vabbè, come stai? Bene, tu Giuseppe, come te la passi? Non c'è male, non c'è male, sei già travaggio. Come mai? Come mai? Non so, da quando abbiamo chiuso giù, il quattro faccio proprio terra a terra, capito? E come mai avete chiuso lì? La famo per mio padre, poi Ari, la mandare avanti e abbiamo iniziato tutti quanti. Come mai? Non c'è quasi tutto tuo fratello in mano. Negativo, mio fratello aveva una nostra fratella, era parecchio che c'era andato quando c'era mio padre, era già andato da parecchio. E io sono a tanto, mica non ci vado neanche lì, Giuseppe, capito? Ma io mi ricordo che c'era tuo fratello. Negativo, negativo. Mio fratello c'era il titolo su invece un pianeta, capito? E io ho capito, vabbè, quindi non avete voluto sapere voi. Negativo, niente, no. Poi è andata un po' male, da banche, attaccati, hanno fatto attaccati. Non faceva neanche dalla ingestione? Eravamo noi in ingestione, capito? Ah, io credevo era a vostro. No, noi non avevamo la pistola, la chirurgia, capito? Quello sì, quello me lo ricordo, però il coso locale lo mandavate avanti tutto quanto voi. Non era così. La mangiavamo a quanti noi, però noi pagavamo la pistola alla chirurgia. Positivo. Ma ancora aperto, Sì, si è aperto, ma adesso, un po' prima, stanno prendendo le guance. Ho capito. Si è specializzato. E tu? Come stai pensando? Anche io, travagliendi. Niente. Stai per il tuo posto? No, ho cambiato ditta. Ho cambiato, vabbè, è una filiale là. Ha privato la patente? Sì, quando mi hai conosciuto tu facevo collettame. Lavoravo per una ditta e facevo collettame. Adesso c'è stato questa ditta qua. E poi da lì me l'ho stufato perché avevo avuto problemi con la schiena, là c'è la frigo, entra e esci, capito? E avevo cambiato. E poi piano piano mi ci hanno rimesso la pista. Hai il tuo lavoro. Sì, infatti loro poi non me l'hanno detto a me, ma io ho saputo che sono informati, cosa facevo, e piano piano mi stanno buffi in mezzo. Ma non è che... dove sei tu, ti hanno aspettato personale, no? Dice, non voglio, guarda, io mi sono venduto con una busta della spesa in quattro e non vogliono assumere perché sinceramente hanno ragione, non possono assumere una persona quando c'è al primo lavoro, tu come c'è del lavoro cosa fanno, capito? Loro me l'hanno detto che è un macello. Facendo concorsi, domande, domandine, però non le risposte, capito? Ho capito. non perderti mai l'animo, prova a tutte le parti, quindi Luca viene a fare qualche cosa. Siamo solo Luca, siamo solo, a voi, la carità, la carità, è tutto male, è lavori, no? Ehi, io domani sono in capannone, adesso anche noi ci abbiamo, vedi, un periodo di calma e sono in capannone. Chiamare la roba. E io quando non faccio l'autista, non faccio il giro dei clienti, io ho un macchinario lì da fare, io sono entrato per rimanere in capannone, capito? Ho un macchinario da fare andare lì, che tratta liquidi, e basta. Luca, ci sei? Entra con te. No, ci sono qua del tuo... faccio una roba qua, aspetta. Sto controllando un computer, un amico che ci ha incasinato. Attenzione che poi non si vada con la malattia, mi tu. Senti bene. Ehi, e tu dove sei adesso? In che zona sei? Sempre giù dove eri prima? No, sono qua alla fine della Maddetta. La fine della balletta risulta, aspetta, fammi pensare, c'è un'antenna in un palazzo infatti lì alla fine, no, però è sul Valdegga Nuovo, sulla destra. Io sono in quel palazzo rosso, rosa, rosa, è un'antenna fatta tra la ripresa. No, no, io sto dicendo sul palazzo c'è una bella mantova 1, lì che non mi ricordo di chi sia. Sì, ma non ti preoccupare, fra poco già ne vedrai qualcuna spuntare di lì, e lì ci è andato a buttare un amico. E chi è? È un vecchio CB. Ma lo conosco io, sì. Ehi, già lo conosci, già lo conosci. Lo conosco, già... già... già... ah, non si è più messo con lui. Ha capito, ha capito, a parte noi, e altra gente, capito? Sì, lo sai che non l'ho più visto? Cerchione, certo, te non lo incontravo sempre, ma non c'ho più niente. Cerchione? Sì, Angelo Cerchione, prima lo incontravo sempre, adesso non lo vedo più in giro. Forse ne è passato davvero che non vedo a Travaglio. Vabbè, però, può darsi. Anche io sono molto portato in giro. Bene o male, prima ci crocevamo, capito? Ci trovavamo, adesso niente, tutto niente. Oppure, anche lui si è stato a Maggio e dunque non può farci nulla. Ma sto dicendo, prima almeno passeggiando, tipo a Sasso, lo trovavi, capito? Ti incrociavi. Lo so, lo so. Già, e tu sei stato a tutto il giorno del discorso, no? No, no, io devo fare una Guatamona. Guatamona? Ehi, se tu ti affaccio a me, c'è in linea d'aria, capito? Sei dritto dritto da me. Dai, già lo so, mi piace cosa che alla Budi Budi. Antonio, popolo. Alla Budi Budi? No, no, io sono giù, verso Sorso. No, verso Sorso, vabbè, magari so. Positivo, là, io sono dal quinto pitti, dai, linea d'aria trovo 300 metri, 400 metri. Ho capito, inizia anche tutto, che non fate anche un popolo e forse un altro. Angelo Fiorucci, come stava dicendo, non mi ricordo il nome. Ma no, quello è già a Sassa, io non sono a Sassa lì, capito? Allora, stava dicendo lui, a Valdetta, lì abita Gianni Do Fiorucci, è in un palazzo bianco, mi sembra, c'è l'antenna in alto, proprio all'ultimo piano. Allora, ragazzi, mi hai detto, allora l'antenna è bella che abbiamo visto. Ma aspetta, aspetta, qua, dove sono io, palazzo bianco. La fatta da Trattamona, non me ne è all'altra parte, capito. Però non ho visto gli antenne di oggi. C'è una 94, però come può essere l'acqua al bagno, capito? 50 metri. Ma allora deve essere lui. No, ma adesso siamo a lui, mi ha detto che non è già con cuore. Poi. Gianni, no. No, Luca. Luca. Io no. Turbo 2001 sulla sinistra c'era nella capotta. il trattore cos'era, con la pala o senza pala? Al momento non ne aveva di pala. Ma cazzo, hai con della pala, allora è un contorsista, un amico, sì, che lo conosce. Perché mai tu ti conosceva? Perché c'è anche mio cugino che c'ha 135 Lamborghini, 135 Lamborghini Turbo, dopo c'ha 115 Lamborghini al filato, là. No, non era il 115, era l'altro. Credito. Chi è? Io, ciao, sono in casa. Alessio, ma è aiuto, gira? Già funziona, sto ancora acceso. Come va? Bene, non ho nessun problema di trasmissione. È più forte del tuo. Sì, io non credo che sia forte del mio, ci mancherebbe. Il 2009 non c'è neanche questo microfono qua, no? È un'altra cosa, il 2009 è vecchiotto, è baracchino. C'ho un F10 io, come il microfono, quindi questo è molto molto superiore. Vabbè, anche la parete è superiore, perché qui ci sono tre finali. Là ce ne sono due. Scappa, ma mi schiaccio importante fa. Ok, già lo sento, fa new. Allora, adesso ho aumentato il watt, guarda, sono la maletta, come sono le fatto, mi sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sei salito a 6 e sei anche più salito per radio. Qui c'è anche Giuseppe, Luca, Tore, Maragricola. Sì, saluto a tutti comunque. Avanti Luca. Spavento, Giuseppe, ripeti. Ciao. Alessio. Alessio. Ti sento un bel passo, mi Giuseppe, ma un bel passo, Santiago 1. Ti sento mezzo al QRM? Lo so. Benissimo, fammi la ponte tu. Chiedili a Alessio. Se c'è qualche microfono al tavolo. Non credo che ne abbia. Lì, Giuseppe, se c'è qualche microfono al tavolo. No, non li ho. Ogni cazzo, non li saputo che era per lì l'altra. Non ne ho niente, manculo. Microfono al tavolo non daggio. Neanche uno. Sentito, sì, Giuseppe. E quello di lì, quello rosso che avevo visto a casa sua di chi è? Ma quello lo usa con quell'altro baracchino. Quello mi sembra che è suo. Perché sto usando questo mic originale della Intel. Ho capito. Ah! Già esci bene, è un po' di antenna che dovresti mettere. No, niente, adesso si decide a fare quella parola, vedrà che sono anch'io per. Ale, adesso se li fai quel lavoro là. Sì, la gamba lì dovrei costruirli. Quella che mi sentiva stamattina non si è venuto, si è venuta. In pratica devo modificare, forse di avere quella frequenza che c'ha, devo fargli la prova 27 e rimettiamo quella, altro non posso fare, altro non c'è assurdo, io sono mica posso andare alla compagnia della nuova, io non ho ma quindi no, sono anche in truccia, quindi così ti ho dato l'alimentatore per poter parlare provvisoriamente. A me non è la casa sua, però sarebbe stata in strada. E poi ho costruito quell'antenna con la canna da pesca. Quella stavo già. Sta andando bene in me come antenna. Solo dovrebbe sollevare a due ore di fare un pochettino dal coso. No, posso levare, c'è. No, al limite quando ti piazza l'antenna. Una rampa con un paletto da 2 metri va benissimo dove abita lui, 2 metri e mezzo. Tanto di superare il tetto, già va bene. Guarda, qua sta arrivando più forte il tennis. Non so se sta arrivando più forte il tennis. Lui, in pratica, è chiaro di fronte, perché io sono andato a casa sua e la zona tua si vede proprio del mare, capito? Perché? Avanti. Ok, buonasera Giovanni, buonasera a tutti. Ah, lei ha detto gli avevi a quell'amico tuo per quello strumento? Sì, l'ho detto. parecchio, mi ha detto, perché dice ne ho tanti strumenti io qua, senza fatti bene una quindicina. Bisogna che riporto il mio TM1000 e glielo faccio bene, e poi vediamo di, se ce la guarda lo strumento, ti faccio sapere qualcosa. Ok, d'accordo, grazie. Buon proseguimento, riprendete pure, scusate. Di niente Giovanni, non c'è problema. Buonasera Gio Maria, ben sentito, di niente. E buonasera anche a voi, dai. Buon proseguimento, riprende per girare, vai. Cappa, riprendi Giuseppe, con Luca. Già, sto qua, dai. Allora, adesso vediamo. Se la giornata bene, se no, vado la fugata e chiedo quanto cosa mantengo, per vedere un po'. Ancora va bene, pure se no da te non ti viene bene metterti un deposito. No. L'ho steso però, non così. No, non va bene, no, cazzo. Ma va bene, va, di così solo per metterci un'antenna. Una gran presa, se mette dei pollici di giovanetto, sono tanto solo, ci puoi salire. C'è la vetrata in alluminio, dopo la vetrata in alluminio c'è un metro e mezzo di tetto e poi c'è il vuoto, capito? Ah, quindi solo l'antenna per mettere. Se no è fatto di poro. Ma non riesco a fare che non ci possa salire, ci vuole la scala aerea per salire sopra il tetto. Quindi l'unica cosa è arrangiarsi così e mettere un paletto che c'è al tetto del muro dove abita lui, con un tassello, due tasselli. Sollevare un paletto da 2,5 metri con la gran prima, oppure vabbè 27, dicevo una cosa leggera, perché altre cose non mi può piazzare in quella lì, anche perché il muro è fatto in forattini. E le gatte non è che siano molto distanti l'una dall'altra, capito? Qui ci vuole una roba leggera, parlo di quello telescopico leggero, con una 27 oppure una gran prima. Se mi mette la mano faccio scendere tutto il muro giù. Positivo, ho capito. Oh, bianco un attimo. Via, va, va bene. Andà bene. A parte che c'era rimasto. Grazie, sei. Quattro ore. Sì. Vabbè. Buoni a prendere. E sono piccoli gli agnelli. Vabbè, mi fa sapere, ci fa un prezzo buono, io amici si comprano, capito, mi fa sapere, c'è mia una mucca, sì sì, la mucca, ce la mucchelliamo, ah, c'è la mucca, non capisco, già va bene allora. Cosa ha fatto? Sì, quanto lo stai dando? Tu sembra che gli sto dando a sette. A chi lo? C'è te che non li sto dando, ma io adesso mi sembra che ho, ma se io ho otto, A sei, Sì, è perché un amico sta andando, il maialetto sta andando a 7. Ma te lo sto dicendo io, è a 6 il maialetto. La pecora, cioè, l'agnellino non so. L'agnellino, macelleria mi sembra che sia qua, a 4 euro. Sì? Vabbè, quando sarà già te lo chiedo. Bene. A proposito di agnellini, Sabato. Sì. Guarda che forse vengo, ma dopo c'hai tu la campagna? Sì, ce l'ho qua. Servirebbe qualcosa, un agnello non tanto grande, da, dipende da quanto è il prezzo, è troppo fresco, meglio lo prima di lanciare, capito? Capito, capito. Sì, Giuseppe, prima di Natale già scendono. Vabbè, ma Salvatore sa mai che si fianca la prenotazione, sai com'è il discorso. Lì, capito, prima arrivi è meglio a farsi, capito. Eia. E così, Salvatore? Sì, è proprio così. Ce la faccio... Vediamo la prossima settimana, entro martedì, mercoledì, scendo, di mattina, se ti sei, vediamo un po'. Arrumè, vivo oppure lo ammazzi tu? Morto, morto! Morto? Va bene, va bene, ok. Allora, ci sentiamo la prossima settimana, dai. Rientrato, mi fumo una sigaretta, mi hanno chiamato. Adesso 5 minuti e poi me ne vado. E dove vai? A casa, io parlo fuori di casa, io c'ho una casetta a prezzi, capito? Ce l'ho qua. Ah, ma anche in campagna, sì. Sì, non avevi capito. No, non avevo capito, io pensavo lì a casa tua. Sì, a casa mia, io abito in campagna. Ah, abiti in campagna? Se te l'ho detto che abito qua vicino a Sorso, capito? Vicino a Platamor. Ah, ma te ne devi andare da lì adesso? No, io ho una casetta a parte dove c'ho l'attrezzi, capito? E ci ho messo il baracchino, perché dentro casa non va giù. Ah, ho capito. Avevo capito che stavo lì dentro casa. No, dentro casa no, lo vorrei mettere, ma non c'è posto, capito? Poi alla portata di tutti non mi piace. Vabbè, una piccola stanza, non sarai. No, sei isso. Poi già, vabbè, la camera del bambino, no, va bene. No, c'è già il computer mia moglie di lì e non va bene. Diciamo che tu sarai dentro, dopo le questioni della roba degli attrezzi, le zampe, quella roba, la motozampa, quella roba lì. Poi a positivo, io ho una casettina, la mia era e ce l'ho tutto lì dentro. Ho capito bene, ho capito bene. Luca di Montezemolo, rientrato. Sì, sempre al computer, Luca. Chi è che stava innescando? Io stavo innescando. attaccato il microfono. Questo microfono va bene. Questo è tutto più basso, io credo sia per la differenza. Con l'amplificazione, questo microfono al mare. Ti senti bene? Ehi, già ti sento. Ciao, va bene. Qua sei Santiago 5 con questa baracchina, tu sei Santiago 7. Questo è molto più ristretto di smettere. Guarda, guarda, quello c'avevo quella prima Santiago 5 mi stava avendo il mal di testa. E quello si è pensato non lì, non ho capito perché. Sì, perché è stato fatto la taratura dalla fabbrica e piglia un bel po' di QRM, ma QRM. Questo a me è silenzioso, cazzo, con questo 2009 sembra di essere in un coso bello silenzioso, modulazioni chiare, perfette. Sembra un King Luger. Cos'è che ha detto quindi? E con questo c'è il King Luger, con l'altro c'è la più QRM, capito? Ma chiedere una cosa, se io vi metto col microfono in sua macchina, qua, ti va bene? Boh, sentitela. Cosa vuole mettere? Quale microfono vuole mettere? Quello che tiene in macchina, è lì adesso. Quello che tiene in macchina? Il baracchino? Ma che te lo attacca? Aspetta, quel baracchino che sta usando piccolino ci mette quello che c'è in macchina. Con il microfono amplificato. Noi esce molto meglio, esce. Capito, Giuseppe? No, ma non è il baracchino, il microfono io parlo, il microfono, quello che c'ho, in macchina, te lo posso adattare qua all'interno. Ma tu quando lo devi usare in macchina, lo devi di nuovo riadattare all'interno. Vabbè, io ci metto quello dell'interno, allora quello che c'è in macchina, c'è macchina. Ah, ha detto che lui vorrebbe cambiare quello che c'ha, il microfono però, in macchina, a metterlo lì dove è adesso, quello che c'ha adesso è in macchina. Noi cambia molto, mi sa. Sono due scatolette quei baracchini. Vabbè, aspettare, comprarsi un bel baracchino grande, un 3009, un 3006, già li trova. C'è uno sta nuovo 100 euro come quello che ho io. Non c'è sotto un canale, 5 vato uscita, nuovo fiammante. Si comprano di qui da Palazzo dei Soldi, ce l'ha Giuseppe Vestiarue, ce l'ha lui a casa sua. Come quello che sto usando io adesso, quello che hai visto tu, che c'è un microfono a palmare. Grande così, c'ha due città sotto un canale, c'ha MFM e bande laterali. Antonello! E tu li chiama? E indovina! Mauro! Allora Antonello, come siamo? Siamo bene, sì? Sì, che sto bene. Tutto a posto, sì? Tutto a posto. Io mi sto scendendo 10 minuti a Santa Ora, e dopo non rientro, mangio e a letto domani mattina fino alle 4. A consegnare. E consegnare, che devo cambio lavoro mio, ero un po' di 11 a casa. Ah, è vero, tu fai quella cosa lì, è vero. Agli 11 timbri te ne vai a casa, mangi e ti dormi da voi. Allora. Hai visto, signore del 40, tranquillo, viaggiando in camion, così passa l'ora almeno. E vabbè, finisco 9, 9, 14, dopo si scende, si sta, si aggirava, e dopo alle 11 si dimma e tanti saluti alle 9 della mattina. Sì, io lo so che, non tu, ma gli altri già si imbostano già, alle 8 e mezza del 9 devi tutti quanti entrare, come i pigi urbani, tutti al circolo. Al circolo, non ci vai, è stato per scaricare la mare, si fa la fila, si fa l'orario, ci fa. Tu guarda, dopo le 8 e mezza d'ora che hanno finito le cose delle scuole, i vigili sono tutti quanti qua da circolo dormendo. Figurati, anche se non possono fare bevono quelli, capito? Purtroppo è così. Sono fai tu malati di buone dritto, ma loro, siccome sono vicini a fare, che li tocca, tra loro già si tappano. E noi siamo tolleranza zero, quindi si trovano un lavoro, pure lavoro. Quando ti fermano invece le tolleranza zero, si notti di mirare la patente adesso. la mettono nella fascia carta e la sono qui. Tiene, ma che camioncino c'ha? Il camioncino con il deposito là per mettere il pesce. Ma che mettere il pesce? Noi mettiamo umido, marroni, veloci di marroni. Capito, no, perché qua vicino a casa viene, ne passa uno sempre, c'è già il camioncino, un deli che già è rinchiuso di quelli, c'è già il cassone di una cella, là, però è corto, è già una 2001 turbo, prima ce l'aveva blu, adesso c'è la rossa, là, c'è il camioncino nuovo, io credevo che di tu. Io qualche volta la metto fase magnetica, sono lo che sa fare a tiro, ma l'ho attacco qualche volta lì, non è attacco sempre. Otto? Sì? E quello che stai dicendo tu, non mi viene il nome, quello lavora alla Grindi. Ah, ho capito, c'è un camioncino bianco, ce l'ha cambiato e ce l'ha preso l'uomo. E lo vedo sempre qua passando vicino a casa là, a fare lumache. Sì, quello lavora alla Grindi, lavoro, è un signore con gli occhiali. Sì. Sì, io lo conosco bene. Beh, signori, salutoni, circolari a tutti quanti. Io me ne sto andando. Siamo alle prossime, ciao ciao. Ciao Benito, ci sentiamo, buon covetti, buon tutto, buonasera. Ciao Benito, ci sentiamo per ficcare, avremo modo di beh. Ciao Benito, ben sentito, alla prossima. Scappa, ricambiate i saluti a tutti, ciao ciao. Certo siamo vicino, mi sento c'è fatta ora. Ma io sono verso il contropettine, capito, però nella grovisorso. Ah, vabbè, io sto scendendo l'angela. Ho capito dove sei andato, alla via. Sì, sì, sono vicino dove fai, dove a terra non eri. Positivo, io sono tutto dall'altra parte, lo so sorso. Io ho capito se la marina di sorso si dà. Cappa. E vabbè, va bene o male, di nerare che si è vicino lo stesso. Sì, quello che è vero. È stato comunque di quello che conta in linea aria, non conta più in tritto la macchina. Cappa. Ciao ciao, dai. E ciao ciao. Va bene. Coca. Giovanni, ripeto. Sto guardando la televisione, sto guardando e ascoltandoti. Ogni tanto vedendo qualcuno in televisione. Strano, Giovanni, hai visto quella? Di uomini e donne. Stava a pubblico, bella grassa, un po' fottuto, guarda, a pigliarsi la cocaina con un mese, ma ve ne voglio, la gente sta impazzendo, sta. Ogni tanto sentiamo una, che, per carità, purtroppo è così, Antonio, e cosa ci vuoi fare? La gente, non si capisce niente questa gente. Tutti quelli che vanno in TV a fare il programma per fare sono tutti tanti in pratica. Ehi, hanno un modo di fare adesso, non lo so. E ce l'è capito, perlomeno. Tutto un modo particolare per loro, ecco, magari per noi a una certa età magari non va bene, ma per loro sembrano che sia una cosa normale, capito? Una volta si facevano le strisciate di birra. E stavo lì, sono le strisciate di cocca, capo. Hai sentito che la piantano anche in Sardegna la cocaina? Che forse qualche pianta ne hanno sequestrati in mezzo alla, in mezzo alle montagne, in mezzo agli alberi. Ah, non volevo quello che fanno. Allora parlo perché è possibile, perché la parola non ci vuole quasi mai nessuno, ci va solo la forestale qualche volta con qualche cacciatore, se non lo sparano pure. Le piattaforme così intanto non li contano nessuno, siccome le piatte sono belle, diventano belle lunghe e alte, poi profumate, per quello che si è d'accordo. Se no trova le piantagioni così, quindi voi. Anche qui si sa magari da quando, da quanto c'erano queste piante. In mezzo ai boschi, in mezzo alle frasche, italiano. Era una banca che aveva la cibrache, aveva la chiesa, aveva la cibiante, eccetera, e mezzo aveva piantata in Sagrosa, ma un bel però, che cosa quanto terreno c'era piantato, si può immaginare. Da lui i padri di Nata la bacia all'astra. Non voleva fare subito con quella bomba già. Si arrivava a quello, mi dice mai. E arrivava per crisi così, guarda, la gente fa come in Afghanistan. Non mi dai lavoro, io come un po' di piantagioni. Beh, certo, lì magari non ci sono altre risorse, risorse di lavoro lì, come campagna, pastorizia, certo, tutte rucce, non è che l'agricoltura potrebbe andare bene, però ci sono altri modi di guadagnare soldi se uno vuole lavorare, dai, poco a poco, almeno per la pagnotta, dico io, ecco. Ah beh, quello sì, ah, bella gente. Si sta toccando in Italia perché c'è un boom di vendita di quella roba lì, capito? Quindi visto che uno fa i soldi, rischia. Cioè, se mi va bene mi faccio un po' di milioni, se mi va bene mi faccio 3 anni di galera, risposta è quella. Magna grazie, anzi. Tu mi dai da mangiare. Sì, pure la pensione danno solo l'altro, questo a parte mangiare gratis, danno anche la pensione. E se fanno la domanda danno anche a cosa, anche la donna gli danno. Sì, sanno tutto lì, hanno tutto, per cui hanno anche sindacato mi sembra, così che vedo un po'. Sanno più bene, però sto troppo affollati, quindi sono troppo. E ogni avviso sempre aumentando. Sì, vabbè, peccato, adesso ci siamo messi a comunità lì, quindi la cosa è un pochettino diversa. Prima se più che gente di stanza lì non c'era. Adesso invece con la pensione che ci sono di comunità c'è il trovo in mezzo, quindi quello che o meno non gliene porti nulla, non c'è niente da perdere, magari la figlia ti ammazza pure in carcere. Tanto si vendono anche i figli quelli, come le albanesi, quindi lì è dato casino, non c'è più rispetto più né per l'altro. In carcere, lì adesso la cosa è cambiata. Quando uno entra lì, sta tranquillo perché ne entra, ne esce scioccato, ne esce. Ci sentiamo, vai. Ci facciamo altra parte domani o dopo domani. Ecco la questione. Ok, a te, buon proseguimento, dai, chiudo. E cominciamo a preparare qualche cosa per poter masticare qualcosa. Ci sentiamo, Antonio, ciao, buonanotte. Sì, d'accordo, ciao, le prossime buonanotte, Giovanni. Avanti, Giuseppe. Amatori, ci sei. Sto facendo girare il ruolo del trattore. Brava, sempre lì vicino a Fama, sì. Sì. Mi sento costruito l'antenna che arriva fino a Fama, ma non c'è l'antenna più a cosa con la canna da pesca. Non dico, ho fatto un metro ora, dove c'è la canna da pesca. Tu devi testo. Se la faccio per bene non funziona per niente. Allora, Giuseppe arriva fino a dove sei tu, figurati, con un dipolo fatto con una canna da pesca. No, capito. Se la faccio per me non c'è scappa a uscire anche da così. Io è culone, cazzo, non sono l'altro. Fino al trattore. E la puoi mettere anche il trattore se per questo, non c'è bisogno di massa, no? Non te va così. Non ha bisogno di venire sulla massa, se c'è un trattore che ha tutto il coso in plastica, ti prendi la canna da pesca, ti prende di po', la voglia se esci. Detto, se gli hai più fitti, Antonio! Antonio a chi? Se l'hai pensato il baracchino nel trattore! No, non l'ho più visto, non l'ho più visto nessuno di quelli. Nei primi mesi li hai sentiti. Sono sempre su 40 da, capito? Io qua gli ho messo due antenne nella stessa zappa, una c'ha la 5000 turbo, l'altra c'ha la 3001 turbo, c'è l'attaccato del superstar 120 canali per farlo girare, perché se no ogni tanto toccava attaccare il filo, attaccare questo baracchino all'altro baracchino, invece l'ho appoggiato vicino e farlo uno o l'altro, quando parlare con l'altro lo stai facendo l'altro. Fai bene, allora gli hai scelto, dici lo stesso, quanti volevo dire, qui dove rientrava in sicuro lì a Campanella per fare, perché lì c'era un'altra gente che c'aveva il trattore che modulava baracchino, faceva questo lavoro tuo e modulava sempre assieme, c'era il cognato di Sidoro che stava con altri due di Campanella, sono altri spariti, sono 8 anni forse che non li sento. Poi c'era gente a San Giovanni, no? Non ho più sentito nessuno di quelli che fanno il lavoro tuo. Ci sei rimasto insieme solo tu e qualcun altro, o di più. Copiano, non so se lo conosci forse, lo conosci molto bene. E adesso ha cambiato il trattore, se ne ha preso un altro. Però il baracchino, l'altro trattore che già aveva, me l'ha attaccato, non lo sa, fa usando perché c'è l'antenna rotta. Nel caso la taglia è pieno, l'erba medica, ne ha tolto i portelli del trattore perché c'era caldo. Ha preso un po' di polvere il baracchino e il lineare ce l'ha dovuto buttare. Il baracchino invece, signor Luigi l'ha portato a gestare, per fortuna mi sembra che funzioni. Io ho visto baracchino dei trattori, quando l'ho aperto un giorno ci ho trovato là, non a... Infine dentro al baracchino c'è trovato, non so, la polvere proprio. E talmente fina quella polvere che entra in tutti i posti. Capito? Poi ti mette tutti in casa, che la poca di cosa. Io ce l'ho nell'altro trattore, ma ogni tanto lo apro e gli do una bella passata di compressione, là, non vicino. E comunque lo uso anche nel trattore perché c'ha, non è a cabina, c'ha tutto sopra. Infatti per sentire, perché l'altro baracchino, questo baracchino avesse modulato, c'era l'altro trattore, mi si era bruciato un coso che attacca all'inizio dove attacca la spina per collegare la corrente, se l'ho portato al signor Luigi e me l'aveva messo a posto, però ci vuole il diodo piccolino, Ah, il 4001 ci vuole, il diodo, quello piccolino nero. Quello per il cortocircuito, Fai rientrare tutti comunque quelli là, così almeno ti fanno compagnia la sera. Chieste. Capito? Sì, ho già capito, c'era uno che stava fischiando basso col bip, non so chi sia, avanti. Sparito, Essere. No, cosa vado a fare diventare tutti quelli che fanno quel lavoro, così ti fanno compagnia. Adesso vado, mi faccio una bella mangiata di un panino, ci sentiamo dopo là, al limite, se no domani. Bene. Ciao, sabato, buon lavoro, buon tutto per il momento. Grazie, buona cena. Un panino con le patate. Oh, non si è quindi faccio un panino con il pane grattugiato adesso. Sono. Ma con una che mezzo? No, sono pane grattugiato, con il sale. Io sono buffulendi, buona riddu, No, io qua metto un immagino. No, mi era nato un coso di tonno grande da 10 kg. Lo sto facendo fuori così, non è che tu faccia un paio di tonno.